Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Gentiloni sull'Abruzzo, orgogliosi dei soccorritori, a Rigopiano ha fatto tutto il possibile, ancora utenze senza elettricità. A breve la sentenza della Consulta sulla legge elettorale, è probabile una bocciatura parziale dell'Italicum. Trump lancia la sua battaglia contro l'immigrazione, muro con il Messico e ipotesi di stop anche per i siriani. E oggi il governo italiano presenta il suo di piano, ipotesi di riapertura dei CIE al centro del programma. È indagata per falso, la sindaca di Roma Virginia Raggi avrebbe mentito sulla scelta del fratello Di Marra. Un anno fa la scomparsa di Giulio Regeni, Mattarella chiede collaborazione per arrestare i colpevoli. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it, invece se ci dovete scrivere. Prima di andare a fare il punto sull'Abruzzo e sulle dichiarazioni di Gentiloni, un collegamento in diretta con la Camera con Vincenzo Miglietta per capire se ci sono novità, perché siamo in attesa e dovrebbe arrivare a minuti la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale, che è dirimente, come sapete, anche per capire quali saranno i tempi del voto. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Attesa che a questo punto, Simone, della giornata non dovrebbe essere lunga, perché come annunciato dallo stesso presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, la decisione dovrebbe arrivare non più tardi delle 13:30. Il fatto che sia stato indicato un orario lascia intendere che i membri della Consulta dovrebbero aver già raggiunto in grandi linee ieri un punto di arrivo sui contenuti del verdetto. La Camera di Consiglio di questa mattina dovrebbe servire allora a limare gli ultimi dettagli, soprattutto per quanto riguarda l'articolazione del dispositivo. Il terreno di scontro politico, lo ricordiamo, è delicato e vi è la necessità di rendere evidente che non si produrrà un vuoto normativo in materia elettorale quanto alla costituzionalità o meno dell'Italicum o di alcuni suoi punti. È dato per scontato che la Consulta entri nel merito, non dovrebbe essere chiamato in causa il ricorso alla fiducia per l'approvazione della legge, mentre il cuore del verdetto di oggi potrebbe ruotare attorno al ballottaggio che dovrebbe cadere sotto le osservazioni della Corte. Potrebbe salvarsi invece il premio di maggioranza, incertezza infine su quanto sarà deciso sui capilista bloccati e sulle multicandidature. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta, al quale raccomandiamo tra l'altro di chiederci la linea quando ce ne sia bisogno, ossia quando arrivasse la sentenza della Corte, quando ce ne fosse bisogno. Adesso andiamo in Abruzzo, dove si scava ancora l'hotel Rigopiano, mentre il premier Gentiloni va in aula per fare un punto della situazione. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Come dicevi, si scava ancora all'hotel Rigopiano, sono attualmente 24 i corpi recuperati, tra le vittime ritrovate c'è anche l'amministratore del resort Roberto Del Rosso. Credo sia stato messo in atto ogni sforzo possibile dal punto di vista umano, organizzativo, tecnico per cercare di salvare i dispersi, così ha detto il Presidente del Consiglio riferendo al Senato sull'emergenza senza precedenti, ha aggiunto, in Abruzzo. Un Senato, Simone, che aveva detto forse le agenzie ci hanno descritto un po' come semivuoto, soprattutto nei banchi dell'opposizione. Detto questo, comunque, a Rigopiano sono state dispiegate, ha aggiunto Gentiloni, 200 persone, il massimo possibile. Complessivamente a ieri sono stati 11.000 gli uomini e le donne impegnati per raggiungere le frazioni isolate e soccorrere le persone in difficoltà. 3.581 interventi di soccorso via terra, 32 elicotteri e oltre 300 missioni compiute. Quindi quella di Gentiloni è stata una difesa decisa del sistema di protezione civile. Sentiamolo. Penso che noi, al di là di singoli errori o responsabilità che, ripeto, saranno le inchieste ad accertare, abbiamo mostrato una capacità di reazione del sistema all'altezza di un grande paese. Non a caso abbiamo un sistema di protezione civile all'avanguardia. La protezione civile non è di destra o di sinistra, non è di questo o quel governo. La protezione civile è un patrimonio italiano che dobbiamo tenerci stretto. Che altro ha detto Gentiloni? Le risorse ci sono, 4 miliardi nella legge di bilancio, ce ne saranno altri, come ha detto lui stesso a Juncker, il Presidente della Commissione europea. Ha aggiunto, abbiamo esteso lo stato di emergenza e deliberato un primo stanziamento, la prossima settimana vareremo un decreto mirato a prevenire i ritardi che potrebbero verificarsi nei prossimi mesi, ci sono delle responsabilità, Saranno le inchieste a chiarire, dice Gentiloni. Condivido la ricerca della verità, ma non la ricerca di capri espiatori e di giustizieri. Sull'elettricità, che sappiamo essere un tasto ancora dolente. Nel momento di picco della crisi, il 19 di gennaio, le utenze non allacciate hanno raggiunto il numero considerevole, dice Gentiloni, di 177.000. Oggi ne sono rimaste solo alcune centinaia nel teramano. Però, diciamo, Simone, sono passati 9 giorni, quindi non è poca cosa. Alle 15 sarà il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda a rispondere alla Camera un'interrogazione sull'emergenza dovuta alla mancanza di energia elettrica in Abruzzo e nelle Marche, quindi ci saremo anche noi a sentire. E grazie dunque a Laura Bettini per questo aggiornamento. Noi cambiamo argomento e poi vedremo nel corso della trasmissione se riusciremo anche a collegarci di nuovo con l'Abruzzo per cercare di capire com'è la situazione, soprattutto nei luoghi nei quali la corrente elettrica non è ancora arrivata a 9 giorni di distanza dal momento nel quale è scattata l'emergenza. Passiamo all'estero. Il presidente americano Donald Trump rilancia il suo programma sull'immigrazione. Sarà un gran giorno per la sicurezza nazionale. Fra le tante cose costruiremo il muro, ha twittato Donald Trump, annunciando per oggi l'ordine esecutivo che prevede fondi pubblici federali per l'edificazione di un muro con il Messico. L'inquilino della Casa Bianca inizia così a mettere in pratica le sue promesse elettorali, a partire proprio da quel muro con il Messico che è stato uno dei temi più simbolici e controversi della sua campagna. Nella stessa occasione firmerà anche una direttiva che prevede restrizioni per i rifugiati negli Stati Uniti e persone in possesso di visto provenienti da Siria, Iraq, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Ancora non è chiaro se ci saranno restrizioni sugli ingressi dall'Europa che potrebbero cancellare il sistema ESTA di visti online. Intanto il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina di Nikki Haley, governatrice repubblicana del South Carolina, come ambasciatore americano all'ONU. La nomina è avvenuta a larga maggioranza, 96 voti favorevoli, soltanto 4 i contrari. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il fronte della finanza con la battaglia su generali. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno. Allora, il caso Intesa San Paolo arriva intanto oggi sul tavolo del consiglio di amministrazione delle generali. Il board è stato convocato in primo luogo, lo ricordiamo, per mettere il sigillo ad un cambio di governance, visto che esce di scena il direttore generale Alberto Minali, ma è chiaro che ora si troverà a dover affrontare la delicata questione del possibile assalto al Leone di Trieste da parte proprio di Banca Intesa San Paolo. I movimenti in borsa, tanto naturalmente per rimanere sull'attualità, oggi Generali frena il titolo in questo momento, è in rialzo di 0,5%, ma ha avuto anche una piccola puntatina in territorio negativo. Frena molto di più Intesa San Paolo, che anzi continua a perdere terreno, -2,27%. Oggi la speculazione si è riconcentrata su Mediobanca, +1,88%, che ricordiamo è la prima azionista di Generali con una quota di capitale del 13%, ma soprattutto su Unicredit, +6 punti percentuali, coinvolta come prima banca azionista di Mediobanca e che secondo alcuni potrebbe avere anche un ruolo nella mossa difensiva messa in campo dalla stessa Generali con l'acquisto del 3% di Intesa San Paolo. Un quadro che si complica sempre di più. Gli analisti esprimono molte posizioni su questa possibile operazione, restano cauti sulla valenza industriale di questo progetto, che comunque ieri sera ha obbligato Intesa San Paolo a venire allo scoperto, confermando con una nota lo studio di possibili operazioni industriali con Generali. Da ricordare anche che oggi in giornata è previsto il primo round di consultazioni in Consob, sono stati convocati tutti i vertici di Generali, Intesa San Paolo e Unicredit, non si sa bene anche se di Mediobanca. I primi ad essere ascoltati nelle prossime ore saranno proprio i vertici di Banca Intesa San Paolo. Per ora, Simone, è tutto. E grazie a Deborah Rosciani. Per il resto dei mercati vi rimando all'appuntamento consueto, quello delle 13:30. Un anno fa la scomparsa di Giulio Regeni, e mentre emergono brandelli di verità che vi abbiamo raccontato a partire da quello del controllo degli apparati di sicurezza egiziani sul ricercatore friulano, torturato e trovato morto una settimana dopo, oggi si svolgono una serie di manifestazioni in suo ricordo e per chiedere verità. Una storia, quella di Regeni, che rimette in primo piano la stessa situazione sotto il regime egiziano. L'analisi di Ugo Tramballi. La vicenda di Giulio Regeni, le torture, la morte e i depistaggi della polizia del Cairo non è solo una tragedia italiana, è la testimonianza del dramma egiziano. Quasi 100 milioni di persone vittime di una dittatura controllata dai militari, convinti che l'Egitto possa essere governato come una gigantesca caserma. Giulio è finito nel tritacarne nel quale sono caduti e continuano a cadere migliaia e migliaia di giovani egiziani, spariti, assassinati, imprigionati senza una ragione, con sentenze scritte senza bisogno di prove. Come molti altri paesi in Medio Oriente e in Europa, l'Egitto è sotto attacco, la minaccia del terrorismo islamico è seria, ma per il presidente al-Sisi, ex comandante delle forze armate ed ex capo dei servizi segreti militari, è l'opportunità per reprimere avversari reali e potenziali. Chiunque dissenta è un terrorista. Questo provoca paura, sfiducia, instabilità e uno degli effetti collaterali è la crisi economica dalla quale l'Egitto non riesce ad uscire, nonostante i cospicui aiuti dei paesi sunniti del Golfo. Così dunque Ugo Tramballi sul caso di Giulio Regeni. Torniamo alla politica e andiamo a Roma per le vicende della giunta Raggi. L'appuntamento in procura è per il 30 gennaio. Questa è la data fissata per l'interrogatorio da magistrati romani nell'invito a comparire recapitato a Virginia Raggi, la sindaca di Roma indagata per abuso di ufficio e falso in atto pubblico nell'inchiesta sulla nomina a capo dipartimento turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex capo del personale del comune, poi arrestato per corruzione. Una nomina, quella di Renato Marra, revocata successivamente, ma sulla quale magistrati romani vogliono fare chiarezza. Tra le carte dell'inchiesta, anche alcune chat tra fratelli Marra e Raggi, che, secondo i magistrati, avrebbe detto il falso alla responsabile anticorruzione del Campidoglio e non avrebbe impedito a Raffaele Marra, anch'egli indagato per concorso in abuso di ufficio, di partecipare alle procedure di nomina del fratello. Raggi, che ieri ha annunciato su Facebook di aver ricevuto l'invito a comparire, si dice serena, pronta a ogni chiarimento, spiegando di aver informato Grillo e la maggioranza capitolina. Il movimento sembra far quadrato intorno alla sindaca, con Grillo che rilancia il tweet della Raggi sull'invito a comparire. L'opposizione PD in Campidoglio intanto attacca. La sindaca venga in aula a spiegare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo al fronte dell'immigrazione. In giornata il ministro Minniti dovrebbe illustrare il suo piano. Sentiamo. Arriva in Parlamento il piano sui migranti allo studio del Viminale. Il ministro dell'Interno Minniti oggi ne illustrerà le linee guida alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato. La principale novità riguarda i centri di identificazione ed espulsione, che saranno più piccoli rispetto al passato e saranno distribuiti su tutto il territorio. Nel pomeriggio la questione sarà anche al centro di un incontro fra lo stesso Minniti e i governatori delle regioni, alcuni dei quali hanno già fatto sapere di non voler accogliere altri profughi. Poi c'è il tema dei rapporti con la Libia, paese dal quale transitano molti dei migranti diretti in Europa. Un punto centrale questo anche nel piano sull'emergenza migranti che la Commissione europea presenterà oggi in vista del vertice in programma a Malta il 3 febbraio. L'obiettivo principale è quello di rafforzare la collaborazione con il governo del premier Serraj per aumentare i controlli nelle acque territoriali libiche e costituire una sorta di linea di protezione in grado di scoraggiare le partenze verso le coste italiane. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo di un fatto collegato ai temi dell'immigrazione che è avvenuto a Venezia. Un uomo si butta in acqua sul Canal Grande a Venezia in pieno giorno. È avvenuto domenica davanti al Ponte degli Scalzi, vicino alla stazione ferroviaria. L'uomo è un migrante, un ragazzo di 22 anni, originario del Gambia. Dalla riva centinaia di persone, turisti e cittadini, assistono alla scena. Nessuno si tuffa. Africa! Oh! Mentre il giovane cola a picco, le persone che si trovano a riva fotografano e filmano quello che sta accadendo. E quello che accade è che l'uomo affoga. Ma falla morire a sto punto. No. Il suo corpo è stato recuperato più tardi dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Ha scelto di affogare deliberatamente, nonostante dal vaporetto gli fossero stati lanciati davanti alle braccia dei salvagente. Non esiste ipotesi di reato per omissione di soccorso. I marinai, spiegano gli inquirenti, sono obbligati a lanciare il salvagente, non a tuffarsi. Non l'hanno fatto loro e non l'hanno fatto i passeggeri del vaporetto, i cittadini e i turisti che hanno assistito alla scena di un giovane che si è lasciato affogare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di immigrazione torneremo a parlare tra poco nel nostro giro per l'Italia e torneremo ancora una volta a Cona, dove, come sapete, c'è l'ex base che è letteralmente piena di persone ben oltre la sua capienza e la situazione continua ad essere difficile anche nei rapporti con la popolazione, come vedremo. Veniamo a parlare di corruzione perché l'Italia migliora la sua posizione nella percezione, nel tema della percezione della corruzione. Si colloca al 60° posto nella classifica di Transparency International. International su 176 paesi. Oggi viene presentato il rapporto e viene anche siglato un protocollo a Roma con l'autority anticorruzione per favorire le tutele per chi denuncia, i cosiddetti whistleblower. Tra le amministrazioni che tutelano già questa figura c'è il Comune di Milano. 26 le segnalazioni arrivate fino ad ora, come Radio 24 è in grado di anticipare. Tra queste anche storie di cosiddetti furbetti del cartellino, insomma truffatori che sono all'interno del pubblico impiego, come ci anticipa David Gentili, presidente della Commissione Antimafia di Palazzo Marino. L'ha intervistato per la rubrica Storiacce Raffaella Calandra. Che le segnalazioni non sono in un numero eccessivo, nel senso che dal 19 gennaio 2015 sono 26 le segnalazioni, nel 2016 sono 14, sono tutte circostanziate, in buona fede e nell'interesse pubblico, che sono le tre caratteristiche che la segnalazione deve avere per poi avere una fase di indagine. Segnalazioni di che genere? La materia più cospicua è quello di segnalazioni che vengono dall'interno sulle procedure da modificare, la pubblicazione degli atti o singoli passaggi dei diversi atti amministrativi. Altre segnalazioni, e sono nell'ultimo anno almeno 7, sono in riferimento a singoli comportamenti di alcuni dipendenti, dalla beggiatura alle ore straordinarie, alla turnazione dei lavori. Altri sono in merito alla pubblicazione, per esempio, di alcune determine o di atti amministrativi che non venivano pubblicati sul sito e che il segnalante indicava che mancavano tra gli atti da pubblicare. Anche questa intervista andrà in onda sabato alle 21.30 nella trasmissione Storiacce, dedicata questa settimana proprio alle storie di chi denuncia dall'interno i misfatti. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Ci occuperemo in questa prima parte della trasmissione, a partire dalle 13.15, ancora di Teramo e di alcune frazioni senza elettricità. Andremo a Cona per parlare di immigrazione e poi andremo anche a Torino, dove il Comune è stato costretto a ripristinare gli orari per le slot che c'erano prima dell'ordinanza che li limitava. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati ancora dell'Abruzzo e delle dichiarazioni del ministro Gentiloni, del presidente del Consiglio Gentiloni in aula. Abbiamo parlato della legge elettorale, è attesa a minuti, dovrebbe arrivare a minuti la sentenza della Consulta sull'Italicum. Ci siamo occupati di Trump che lancia la sua battaglia contro l'immigrazione e ancora della giunta di Roma e dell'indagine su Virginia Raggi. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e ricominciamo da Teramo e torna da noi Maurizio Bruchi, che ne è il sindaco, che è il sindaco della città e che abbiamo raggiunto spesso in questi giorni per avere qualche aggiornamento. Bruchi, bentornato, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, ci sono ancora utenze senza elettricità a 9 giorni di distanza? No, oggi è il decimo, ci sono ancora utenze senza elettricità perché le riparazioni sono state fatte quelle possibili. Sono stati posizionati i gruppi elettrogeni, però è chiaro che dalla cabina in alcune abitazioni ci sono cavi ancora a terra, per cui ci sono ancora persone che sono senza energia elettrica. Immagino non è più Bruchi, accettabile. Sì. Non è più accettabile. Lei dice che non è più accettabile, qualche ascoltatore ci dice anche: avete visto tralicci e linee prima di dire insomma che 10 giorni sono inaccettabili? Cioè c'è stato anche un problema effettivo, no? Di tralicci crollati, di linee che sono cadute, sì, no? Sì, è vero, però mi ascolti, non è più accettabile che nel terzo millennio in una regione come l'Abruzzo è già il secondo episodio che si verifica nel giro di qualche anno. Perché allora bisogna fare investimenti sulle strutture, sulle infrastrutture, perché questo non accada, perché in altre regioni dove nevica anche più dell'Abruzzo questo non succede. Ora io mi rendo conto, lei ne sta lavorando, quindi sta approfondendo un grande impegno, qui non è su un discorso di fare recriminazioni, di attaccare lei nel più. Però il dato di fatto è questo, che ci sono cittadini che sono 10 giorni che sono senza energia elettrica, quindi al freddo. Ieri una persona, un cittadino, mi ha mandato un messaggino e mi ha fatto vedere il termometro di casa sua. Dentro casa aveva una temperatura di 6 gradi dentro casa. Quindi questo è un discorso che va, adesso superiamo l'emergenza. Poi ci saranno tutte le cose da vedere, perché comunque i danni sono ingenti nel nostro territorio. Però davvero poi è il momento di mettere un punto fermo e di decidere il governo, l'Enel, che cosa vogliamo fare di questo territorio che è in ginocchio. Cioè, bisogna fare investimenti per evitare che si ripeta una situazione come questa. Senta, Brucchi, nel frattempo oggi dovrebbe esserci un intervento del ministro Calenda che cercherà di spiegare un po' come sono andate le cose da questo punto di vista, e speriamo che possa dare anche un po' di chiarezza sotto questo aspetto. Nei giorni scorsi, quando l'abbiamo sentita, ci ha detto... qua stanno già iniziando le frane, perché poi la neve c'è, arrivano 2 metri di neve, poi la neve si scioglie e succede quello che succede. Come vanno le cose? Ma le frane sono già iniziate, come era previsto. Abbiamo diverse frane sulle statali principali, abbiamo una frana anche all'interno della città in prossimità di una viabilità di grande scorrimento, dove c'è un muro che comincia, un muro di contenimento che comincia a dare segni di cedimento. Abbiamo dovuto parzializzare la viabilità in questa strada, ma purtroppo siamo solo all'inizio. Stiamo monitorando tutto il territorio nelle zone che noi sappiamo essere a maggiore rischio frana, però ripeto, purtroppo siamo solo all'inizio, perché oggi è uscito il sole, stanotte ha fatto molto freddo, ma adesso che il sole comincerà un po' a riscaldare, la neve si comincerà a sciogliere. Già adesso si stima in giro, fiumi d'acqua si riversano sulle strade, si riversano nelle campagne. Poi c'è il problema di tutti gli animali morti che sono purtroppo ancora nelle campagne e che non possono essere portati via. Finora non c'è stato nessun problema alla rete idrica, perché è chiaro che con le frane purtroppo arriveranno i problemi alla rete idrica. Insomma, siamo l'emergenza, la fase acuta, se vogliamo, così possiamo dire, ce l'abbiamo alle spalle, ma adesso comincia tutta una seconda fase di emergenze e di problematiche da cui sarà difficile uscire. Poi c'è il problema delle scuole, che non è secondario, perché le dichiarazioni del presidente della Commissione Grandi Rischi ha gettato panico in tutto il nostro territorio. I genitori vogliono giustamente risposte sicure, risposte certe per i loro figli, ma come è giusto che sia? Lei sono chiuse per tutta la settimana da voi, no? Io le ho chiuse fino a sabato, ma non escludo che le chiuderò ancora se non ho risposte dal governo. Io ho scritto a Gentiloni deve darmi una risposta, deve dare una risposta ai sindaci, perché qui il gioco del cerino in Italia deve finire, che tutti si passano il cerino e poi resta in mano al sindaco. E la risposta del presidente della Commissione Grandi Rischi, che mi ha dato anche l'altro giorno, che se io ho scuole che possa esistere un sisma tra 6 e 7, è davvero una risposta che lascia sbigottiti, cioè lascia un grande imbarazzo. Ma si vede che non si conoscono le strutture, non si conoscono le scuole, non si conosce il patrimonio del nostro paese. Lei dice a questo punto, per evitarmi una responsabilità, francamente le chiudo tutte. Non è così, non è, guardi, per evitarmi una responsabilità, perché io fino ad oggi, noi abbiamo avuto il sisma di agosto, il sisma di ottobre, io ho sempre fatto così. Dopo il sisma ho chiamato la protezione civile, ho fatto le verifiche nelle scuole e le ho riaperte tutte, convincendo anche i genitori, facendo incontri con i genitori, assemblee. Però adesso, quando qualcuno mi dice che potrebbe arrivare da un giorno all'altro una scossa del 7° grado, capisce bene che cambia tutto. Cambia tutto. Certo. E quindi non è questione di questo. Io me ne assumo le mie responsabilità. Però adesso voglio capire se il mio comportamento, il comportamento che ho avuto fino ad oggi, è stato giusto, quello di, dopo un sisma, fare le verifiche con la protezione civile e poi riaprire, o se invece devo fare altro. E questo no, io non è che non lo, io le responsabilità, guardi, i sindaci se le assumono quotidianamente, tutti i giorni, mettendo sempre una firma sotto un provvedimento, però è ora che se le assuma anche qualcun altro qualche responsabilità in questo paese. La ringrazio, grazie Maurizio Brucchi, sindaco di Teramo. E un altro sindaco che si assume le sue responsabilità è Alberto Panfilio, che è il sindaco di Cona, siamo in provincia di Venezia. Torniamo da lei, Panfilio, bentornato. Sì, grazie. Allora, buongiorno a voi radioascoltatori. Allora, eccoci qua. Cona, dove lo sappiamo, è scattata nel periodo, diciamo, tra il 2 e il 3 gennaio, c'è stata una rivolta di migranti all'interno di questa base, nella quale sono ospitati a centinaia, ben oltre il limite, ben oltre quello che sarebbe consentito, a Cona, dove comunque c'è un filo di tensione, no, che permane in merito a questa vicenda, tanto che addirittura La società sportiva locale, quella di Pegolotto, nei giorni scorsi ha deciso di non concedere più il campo ai migranti in attesa che siano sottoposti ad esami e vaccinazioni. È così? Dovremmo un po' ricostruire la questione, perché non c'è un caso di razzismo, è ingeneroso dichiarare questo. Quella società sportiva... Ma ha sentito Panfilio che io non l'ho detto, eh? No, ma sa, io sono molto diretto nelle questioni, perché spesso si annidano personaggi che vorrebbero far credere una cosa, ma in realtà non è. Quella società sportiva ha agito in questo modo. I fatti quali sono? Caso di sospetta meningite invase, e le posso dire sono state ore molto molto molto problematiche. Dopodiché, a proposito, Panfilio, mi scusi, quanta gente c'è ancora dentro la base? Dalla comunicazione di ieri sera 1216. Ah, cioè 1200, non è che è cambiato questo granché, insomma, anzi. No, perché tutti dichiarano, anche dopo la commissione d'inchiesta, che Conetta non deve più esistere in queste dimensioni, però nessuno dice come. Certo, quindi se non hai la soluzione alternativa li lasci là e nel frattempo questa situazione permane. Ma che cosa è successo? C'è stato questo caso di sospetta meningite, i genitori, immagino, dei ragazzi che giocano là si sono preoccupati, hanno detto... Certo, una presa di posizione. Noi come amministrazione abbiamo subito convocato un'assemblea pubblica in cui sono state date tutte le informazioni. Queste informazioni da verbale dell'ASL debbono comunque definire un rischio che è relativo a un elevato numero di ospiti su un problema in caso di patologie infettive. Questa è la dichiarazione generale. Dopodiché, nello specifico, qualsiasi giocatore di calcio che provenga da qualsiasi paese del mondo che voglia fare calcio agonistico deve presentare un documento di idoneità e la società sportiva ha chiesto anche i dilettanti, Panfilio, anche i dilettanti, cioè non assolutamente solo assolutamente sì. Certo. Assolutamente sì, agonistica in generale, dunque non professionistica, ho detto sì, mi sì, sembra sì. Dilettantistica, sì. E comunque agonistica. In questo certificato di idoneità il ragazzo viene sottoposto a una serie di analisi che gli dà un certificato di idoneità. La società ha chiesto solamente questo, non è stato come dire un blocco del campo per i profughi, è stato semplicemente una richiesta di avere certo. I certificati medici, che ma è correttissima. Che questa società addirittura in passato si è occupata di curare i migranti all'interno della base, quelli che giocavano a calcio, perché all'interno della base non venivano nemmeno curati nemmeno per l'influenza. Ha fornito farmaci, ha fornito medici, gli dava, portava il latte. Cioè questa società si è sempre distinta per essere aperta a questo, diciamo, principio di integrazione, e comunque è stata generosa. Che ci sia un caso oggi di razzismo e si accusi la società è assolutamente ingeneroso. Senta Panfilio, ultima cosa che le voglio chiedere è il quadro della situazione a Cona, in questa situazione perdurante di problema con 1200 persone ammassate certo. Là dentro, che come abbiamo raccontato in passato e com'è normale, perché non è un carcere, girano liberamente anche all'interno delle campagne, vengono nelle città eccetera eccetera, com'è il quadro? La maggior parte ozia dentro questi capannoni di plastica a non fare nulla e sono anche bravi a stare tranquilli. Da un altro punto di vista ci sono lungaggini per la definizione dello status, ci sono valanghe di denaro spese che non serviranno a niente perché non stiamo facendo formazione e dunque non ci potrà essere in ogni caso integrazione. Stiamo suggerendo al governo varie iniziative che vanno al di là di pronunciare questa frase accoglienza diffusa, che di per sé non fa altro che spostare il problema nel tempo. Che il governo dica cosa vuole fare, che progetto, abbia il coraggio, e poi in questa nazione se verrà approvato si va avanti, così si va in una nazione moderna, ma si deve fare qualcosa, non solo parlare. Allora Panfilio, io la ringrazio, vedremo anche qua che cosa avrà da dire nel pomeriggio il ministro Minniti, che dovrebbe presentare il suo piano, anzi lo dovrebbe presentare addirittura a minuti. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo subito dopo. Il nostro giro per l'Italia ci porterà a Torino, dove come in tante città c'è una battaglia sulle slot tra il comune, che tenta di imporre degli orari, e i gestori delle slot, che invece dicono no, noi questi orari fissi nei quali far giocare la gente non li vogliamo. Hanno fatto un ricorso, l'hanno vinto e di fatto a Torino le regole sono tornate come quelle di prima. Effetto giorno. Perfetto, giorno le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli: Gentiloni sull'Abruzzo, siamo orgogliosi dei soccorritori, a Rigopiano fatto tutto il possibile, ancora utenze senza elettricità. A breve, proprio nei prossimi minuti, dovrebbe arrivare la sentenza della Consulta sulla legge elettorale, probabile una bocciatura parziale dell'Italicum. Trump lancia la sua battaglia contro l'immigrazione, muro con il Messico e ipotesi di stop anche per i siriani. Oggi il governo presenta il suo di piano, ipotesi di riapertura dei CIE al centro del programma. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, prossima tappa del nostro giro per l'Italia è Torino. Torino è tra le tante città, non la sola, che ha posto delle limitazioni alle slot, insomma quelle dei bar, quelle nei quali si può andare a giocare, riducendo gli orari. Si poteva giocare solamente dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 24. Come sapete, ogni volta che un comune fa un'ordinanza di questo tipo si scatena una battaglia legale da parte degli esercenti, non ogni volta ma quasi sempre. In questo caso la battaglia è stata vinta dagli esercenti, appunto, e il Comune di Torino è stato costretto a ritornare agli orari precedenti. Grande tema dibattuto, sul quale forse ci vorrebbe qualche regola generale. Geronimo Cardia è un avvocato ed è il legale del concessionario Admiral Gaming Network, che è il promotore del ricorso. Avvocato Cardia, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, è piuttosto curioso, allora immagino la vostra soddisfazione, quindi nemmeno glielo faccio dire, naturalmente, perché questa è una decisione, se non erro, del Consiglio di Stato, no? Esattamente. Sì, decisione del Consiglio di Stato. Lascia un po' perplessi, avvocato, e lo dico e lo chiedo a persone esperte di diritto, questa grossa confusione, perché ci sono sentenze che vanno a vostro favore, altre sentenze che vanno a favore dei comuni. Come al solito, in questo paese non si riesce ad avere una chiarezza di come possano andare a finire queste cose. Perfetto, dove posso mettere una firma soprattutto sull'ultima frase che ha pronunciato? Il punto è proprio questo. Innanzitutto mi lasci dire che noi non è che siamo soddisfatti, perché la decisione del Consiglio di Stato è veramente provvisoria. Siamo contenti perché il Consiglio di Stato ha riconosciuto che nelle more della decisione, perché dobbiamo ancora aspettare una decisione finale, gli orari siano sospesi, perché ha compreso che attuarli nelle more della decisione significa mettere a rischio la sopravvivenza della impresa che sta rispettando il provvedimento comunale. Quindi questo risponde anche al concetto che lei ha messo in evidenza, no? Esce un provvedimento normativo. Sì, anche perché qua il problema è che un giudice deve stabilire qual è il limite di sopravvivenza per uno che ha delle slot nel suo bar, cioè il limite di sopravvivenza dell'azienda o di uno che ha le slot nel bar o del concessionario. E qua, no? Esatto. Si apre tutto un capitolo. Noi l'abbiamo dimostrato con una perizia fatta da un commercialista che mette in evidenza che la riduzione a 8 ore di funzionamento degli orari significa ridurre del 50% l'orario di lavoro, chiamiamolo in questi termini, dell'impresa e quindi i suoi ricavi. È come l'esempio che abbiamo fatto: se a ognuno di noi, beato chi ce l'ha, venga dimezzato lo stipendio dall'oggi al domani, con tutti gli obblighi di adempiere alle spese fisse, che non sono quindi sopprimibili, e che per impegni presi precedentemente. Cardia, cui... qualche comune l'ha fatto con successo e senza troppe proteste. Penso per esempio a Bergamo, no? Che ha fatto un'ordinanza secondo la quale non si può giocare, o meglio, le slot devono restare spente a ora di colazione più o meno, no? Prima mattina, a ora di pranzo e a ora di cena sostanzialmente. Le sembra più equilibrata una soluzione di questo genere? Le rispondo in due modi. Allora, il primo è questo: ridurre l'orario di apertura delle pasticcerie riduce il numero dei diabetici? Questa è la prima risposta che le do, che però... Vabbè, è un po' forte messa così, un po' fortina. La dai. Causa della indicazione, della limitazione di orari è quello di ridurre il numero dei ludopatici. Questo è il primo aspetto. Sì. Il La seconda risposta che le do mi risulta, perché ho appreso dagli organi di stampa, che è stata fatta una forma di impugnazione differente su Bergamo, perché è stata interessata direttamente la Corte dei Conti per la valutazione delle conseguenze sul gettito erariale. Mi lasci dire solo una cosa: quando si tocca la materia del gioco legale, e questo è molto importante che chi ci si approccia ne sia consapevole, si toccano almeno 6 interessi, non uno, tutelati dalla Costituzione, che sono la salute, non ci dobbiamo ammalare di gioco, il risparmio, non dobbiamo buttare i soldi dalla finestra, l'ordine pubblico, lo Stato deve presidiare il territorio altrimenti l'offerta di gioco finisce in mano all'illegalità o torna in mano all'illegalità. Il gettito erariale, in questo modo questo è un altro snodo che conosciamo benissimo, l'impresa, se un'impresa vince una gara, ci è chiarissimo, siamo Radio 24 e il lavoro. Ogni volta che si tocca una virgola della regolamentazione del gioco, si impatta direttamente su tutti e 6 gli interessi costituzionalmente garantiti. Allora, io la ringrazio, grazie a Geronimo Cardia, appunto avvocato che si è occupato di questa vicenda per il concessionario Admiral Gaming Network. Noi adesso abbiamo veramente un minuto, voglio salutare Ciro Verdoliva, che è direttore generale dell'ospedale Cardarelli di Napoli, ed è qua che andiamo nel nostro giro per l'Italia. Verdoliva, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori di Radio 24. Oh, che bellezza. Senta una cosa, c'è stato un po' di confusione al Cardarelli, leggiamo di barelle nei corridoi, niente attesa, 22 minuti per i codici gialli, e va bene, insomma ci può anche stare, però un weekend molto difficile. Beh, un weekend difficilissimo che ci ha visto fin da venerdì presenti sui luoghi, perché al di là del problema barelle che stiamo affrontando già da diversi mesi, noi abbiamo avuto un problema ben più grave. Lunedì mattina non avevamo più disponibilità di posti letto, di rianimazione e di terapia intensiva post-operatoria. Da 6 giorni in barella denunciano alcuni... Da 6 giorni in barella, alcuni letto, pazienti. In una barella letto, in osservazione breve intensiva, abbiamo avuto un grande afflusso nella prima settimana di gennaio, un super afflusso, oggi ne stiamo ancora pagando le conseguenze, abbiamo messo in campo una serie di azioni che ci permettono di gestire e non più di subire il problema, delle azioni concrete, e i minuti che le diceva dei codici gialli e dei codici verdi sono proprio il frutto di questa azione. Abbiamo distinto una cellula nuova straordinaria all'interno del pronto soccorso che si possa occupare solo dei bianchi e dei verdi, e così lasciando al vero pronto soccorso quello solito, i gialli e i codici rossi, che in questo periodo sono veramente molto importanti. Allora, abbiamo veramente pochissime anzi dobbiamo chiudere. Io la ringrazio, Ciro Verdoliva, direttore generale di Cardarelli, che noi abbiamo voluto convocare perché il problema degli ospedali napoletani sta montando piano piano, ma continua a rimanere. Allora, prima del traffico vi faccio sentire, poi ci risentiamo alla fine per i saluti, questa voce del presidente della Regione Campania, De Luca, poi la linea può andare direttamente al traffico. Pensi che a Napoli avevano chiuso tutti i pronto soccorsi? Tutti i cialtroni che hanno fatto finta di solidarizzare con i medici sono gli stessi che, avendo chiuso i pronto soccorsi a Napoli, avevano determinato la condizione di trincea del Cardarelli. Io ho riaperto i pronto soccorsi a Napoli.